All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini! Sì. Altra settimana insieme, altra settimana all'House, cenachiocciolabach.it per commentare questa puntata della cena dei regini. Il Bach.it e clicca la cena dei regini se vuoi rivedere tutte le puntate precedenti e commentarle assieme a noi online. Ragazzi, grande notizia per iniziare questa puntata della cena dei regini. La nuova Sala Sud, rivista, rivisitata, con dei nuovi e comodissimi e sfavillanti tavolini disposti a ospitare le tue serate in ottima compagnia, modestamente. Tutto questo grazie ai soldi raccolti dalle iniziative dell'AOS, quindi autofinanziandoci, siamo riusciti a costruire questi nuovi tavolini, molto divertenti, molto comunque colorati, veramente sono fantastici, sono di compagnia. Anche quando sei solo, tu stai là così, solo, solitario, però stai bene, perché sei in compagnia di un tavolino come si deve, e quindi assolutamente da visitare. Grande Sala Sud che va avanti. E poi, ragazzi, ci avviciniamo a San Valentino, questa puntata della cena dedicata all'aspettando San Valentino. Aspettiamo San Valentino. Aspettiamo sempre San Valentino, santo protettore dei motociclisti, che praticamente ci porterà grandi novità anche all'AUS, iniziative particolari. Segui il sito ilbach.it e gildartisti.org per saperne di più, ragazzi. Se vuoi qualcosa di divertente per te e la tua compagna, veramente non perdere le iniziative dell'AUS. E poi altre grandi iniziative: mascherarti, che gioco di parole, l'unione tra le maschere e l'arte. Questa serata dedicata alla serata a tema, con questa voglia di mascherarsi, di trovare comunque questa atmosfera carnevalizia che va a finire, deve finire alla grande. Quindi una serata dedicata al mascherarsi, però a tema arte, quindi film, pittura, scultura, poesia. C'è chi si vestirà da Po, c'è chi si vestirà da Dalì, c'è chi si vestirà da Lee, Lee. Bruce Lee, no. Bruce Lee, ragazzi, non mi piace. Si vestirà da Lee. Alla fine della serata lui verrà ucciso e squartato, però... Perché mi sarò vestito da Hitchcock, quindi perché già la panza la sto portando avanti, anche il doppiamento si può fare. Hai detto una robetta che mi fa vestito da corda, infermiera. Ragazzi, attenzione, questa anteprima scottantissima, la nostra Andreina vestita da infermiera, quindi... Il cappellino, ragazzi, da non perdere assolutamente, cliccate. Ma che giorno è? Mercoledì 18 faremo questa festa dove saremo tutti in maschera. Entusiasmo, è palpabile l'attenzione anche Andrina, scatenatissima. Perché diciamo, è una cosa aperta a tutti, e poi è bello quando ognuno si crea il suo costume, lo porta, lo prova, eccetera. Nella sala nord musica, nella sala sud anche un red carpet dove sarete immortalati con i vostri costumi, e poi premio al costume migliore, premio al costume più azzardato, quello più eccessivo, più self made, meglio fatto. Insomma, ragazzi, preparatevi, tenete di mira il mercatino, tenete di mira le lezioni di taglio e cucito, è il momento di scatenarsi. Mascherarti, mi raccomando. E poi, ragazzi, tutto questo grazie alla Gilda degli Artisti, la grande associazione culturale che sta continuando a sfornare questi eventi, quello che facciamo qui, l'House of Bach che è nella sede, e grazie anche a te che ti sei iscritto o a te che adesso ti stai iscrivendo. Quindi clicca, riduce icona, apri il browser www.gildartisti.org, clicca gildarsi, iscriversi alla Gilda. È gratuitamente da casa tua online, senza nessun impegno, puoi iscriverti. Ogni gildato è una voce in più a questa grande, unica realtà Regina, stanno già donando i soldi. Se vuoi donare soldi, fallo, perché ce n'è sempre bisogno, ma è anche gratuito, quindi lo puoi fare senza alcun impegno. Non diamo cattivi esempi e poi pare male. Ragazzi, bisogna iscriversi per essere sempre di più e dare sempre una voce più grande a questa realtà, con tutte le iniziative che organizziamo. E poi infine, ragazzi, la Cenere Gini, che è anche un modo di ritrovarsi, di stare assieme, di discutere assieme delle prossime iniziative organizzate qui e con la Gilda, quindi chiunque può partecipare. Puoi partecipare tu come commensale, portando e condividendo del cibo, puoi partecipare anche come ospite qui dietro per proporre la tua musica e come dire, adornare una puntata della cena con la tua arte. Quindi insomma, scrivi a cena@back.it e prenotati per la prossima puntata della Cena dei Regini. Ragazzi, partiamo con questa grande trasmissione, grande puntata, aspettando San Valentino, ma prima, come San Valentino si prende una pausa nella nostra vita, prendiamoci una pausa con un piccolo spazio musicale. La Cena dei Regini. See me when the Gotham's raging. I'm a baller and the streets my staging. See me running through the tunnel on my black bike. See me when you see me say, oh, see the dark blood rising. See the dark blood rising. Go, see the dark blood rising. Oh, if you see the dark blood rising. See me growl like Hulk in a thunder. I'm the woman of the year, boy wonder. Wanna raise you up to analyze and a ponder. While bullets on film now crash through the big screen. See us, we are coming of ages. Loners, freaks, gamers, and minimum wages. Gotham's burning and it has no patience. See me when you see me say, oh, see the dark blood rising. See the dark blood rising. See the dark blood rising. Oh, if you see the dark blood rising. Oh, see the dark blood rising. See the dark blood rising. Go. See the dark blood rising. Oh, if you see the dark blood rising. And as I awoke one morning, I took my dad's big gun. Super. Cinematic Schwarzenegger, Terminator, to put a mask on. Feeling like the motherfucking dead guy on a dark night, yeah. Heath Ledger as I walk in the room, feel like nothing is real. Screams in the darkness, there's screams in the darkness. Weird things in my head, weird things in my head. I got the time confusion, I got the panic attacks. Who the hell do you think I am? I'm nobody, he's gone. We're nobody, we're gone. No one's friends, no one's sons. Why don't you scream a little louder? Come on now, run, kids, run. You won't forget me this time as I hold that gun. See me, they say she's so Nolan. When buildings burst and the walls are swollen, this ain't no Hollywood or reality TV. Bullets on film now, crash through the big screen. Oh, see the dark blood rising. See the dark blood rising. We'll be right back. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, cena@bacco.it, per commentare queste notizie che andiamo a sfogliare assieme alle notizie dalla strada, quelle più strane e più curiose, stavolta a tema, il tema della puntata aspettando San Valentino. Innanzitutto parliamo quindi di amore, ma come prima notizia un amore veramente speciale, molto molto naif, molto dolce. Lei si chiama Marta, ha 9 anni e pensate, ha fatto una cosa straordinaria. Lei è una piccola malata che combatte la sua malattia nel reparto di oncologia di Padova, e la piccola Marta ha dedicato tutto il suo i soldini raccolti con il Natale, i regali di Natale, per regalare degli oggetti utili ai pazienti del reparto di oncologia di Padova. Quindi un gesto bellissimo che merita un applauso. L'hanno segnalata in tantissimi questa notizia. Grande la piccola Marta, ha raccolto ben 475 euro, tra l'altro neanche pochino, e spiega nell'articolo che la riguarda che molti di questi soldi sono andati per comprare dei tappi blu che servono particolarmente per aiutare i pazienti che hanno bisogno in questo reparto, sono delle valvole particolarmente costose. E quindi tutti i suoi soldini raccolti sotto l'albero di Natale che vanno a questa bellissima iniziativa, ragazzi, fantastico. San Valentino si avvicina, amore anche questo, ma amore anche una storia particolare, la storia particolare della bellissima Natalia. Quanti di voi la conoscono? Natalia, voi la conoscete sicuramente, l'avete vista. E lei, attrezzata di un cane con diverse foto a bordo della piscina, ha mandato mail a mezza Europa dicendo di voler fuggire dalla sua Russia e di essere disposta a scappare all'estero, magari in Italia, se trovasse un contatto italiano disposto a ospitarla. La ragazza è veramente procace, è veramente molto interessante. Piccolo dettaglio, è una mega truffa online, è tutto un falso. Ed è una mega truffa che sta andando tantissimo, cioè questa falsa Natalia, che secondo l'idea, cioè secondo la truffa, una trentenne di Kiev, comunque si fa ritrarre in queste foto, non proprio sé, ma comunque abbastanza spregiudicate, avrebbe voglia di venire in Italia e quindi avrebbe bisogno di denaro. Tanti malcapitati hanno accettato questa proposta, considerando che la ragazza chiede 410 euro per il costo del biglietto aereo, quindi comunque ha fatto dei bei soldi con questa truffa. Quindi ragazzi, l'amore è anche una bella sola a volte, direi. Natalia, però, diciamo, se la protagonista delle foto, quella reale, però, si vuole presentare alla cena dei regini, noi la ospitiamo, perché voglio dire, è giusto che la ragazza abbia un sia qua con noi, e sì, l'ora di mandare a casa questi trucidoni e avere una bella figlia, detto tra noi, quindi tranquillamente. Non è la prima volta che tiro una truffa del genere, allora. No, questo è un classico, però questa truffa era confezionata parecchio bene, perché aveva molti dettagli con questo personaggio di Natalia preparato veramente ad hoc, e quindi ha fatto tantissimi denari, tra l'altro 410 euro a mail, anche se avesse beccato un 10%, sono un sacco di soldi. Delusioni, quindi delusioni amorose che non risparmiano veramente, veramente nessuno. Tu puoi essere un bravo ragazzo e ti becchi la delusione, puoi essere quello là un po' così frivolo e ti becchi la delusione, puoi essere tale Charles Manson, pluriomicida, e ti becchi lo stesso la delusione clamorosa. È successo proprio a lui, quell'esaltato pazzo fanatico di Charles Manson, ha una fidanzata lui da 7 anni che intendeva sposarlo. Charlie ha scoperto che era tutta una truffa che, pensate, era mirata ad avere il suo cadavere dopo la morte per sistemarlo in una bara di plexiglass ed esporlo al pubblico. Quindi la ragazzina si era già studiata questa idea di esporre il cadavere di Charles Manson e fare pagare la gente per andarlo a vedere. Il mausoleo in plexiglass avrebbe avuto sede in California, già aveva ideato un attimo la cosa. E quindi pensate voi, c'era questa idea di tramite questo accordo matrimoniale di avere il cadavere. E lui come ha fatto a scoprirlo? Lui ha avuto un po' di intuito, diciamo, un po' di... secondo le cronache se l'era capita, addirittura continuava ad andare avanti nel gioco per sfruttare, dice, ad avere in carcere dei dolci che le portava regolarmente. Quindi chiamalo fesso. Lui l'ha capito anche grazie a un figlio che avrebbe fuori dal carcere e che ha un attimo subodorato la cosa. Come fai a capire che vogliono esporre il tuo cadavere in giro? Il figlio avrebbe beccato, diciamo, i piani di questa tizia, e poi c'era tutto un discorso che lei, insomma, legalmente mirava a questa dal possesso del cadavere. Questa cosa l'ha insospettito. Poi è venuto fuori tutta questa mega truffa originata alle spalle di Charles Manson. Ragazzi, Charles Manson. Vedi, è un modo per evitare le sole, cioè, come a dire, lui ci ha provato, però non ha trovato la ragazza giusta, o me ha trovato la ragazza giusta ma con le intenzioni sbagliate. Da un lato questo del qua era molto più giovane lui. Sì. Assai più giovane. La ragazza, diciamo che si era presentata bene, però evidentemente aveva questi secondi fini. Doveva pure godere un pochino, scusa, non è che ci mettevo tanto a morire. E quindi, visto che gli è andata male con Charles Manson, un'idea: fai una lista con tre foto smutandata e scrivi Natalia Kiev 30 anni. Qualcosa la becchi lo stesso, ragazza mia. Fate molta attenzione. Ma ragazzi, qual è il segreto per far durare la coppia? Parlando di San Valentino, quindi il grande problema delle coppie è proprio questo: il fatto che comunque non c'è, a quanto pare, una equazione matematica perfetta per definire quale sia la coppia ideale, quale sia la persona ideale. A tutto questo problema atavico che riguarda milioni di persone in centinaia di migliaia di anni, cerca di rispondere tale Anna Fry. Anna Fry, insegnante di matematica all'University College di Londra. Lei, la ragazza, si è impegnata a dimostrare qual è, secondo la matematica, l'equazione perfetta per trovare l'amore. Innanzitutto ha dato delle linee guida. La prima linea guida è lanciarsi senza aspettare che il destino bussi alla nostra porta. Quindi Anna Fry dice praticamente spara nel mucchio, essenzialmente, cioè dice vai, mollati in avanti, coraggio e intraprendenza sono gli elementi chiave per trovare la persona giusta, secondo sempre questa studiosa britannica. E poi pare anche che una cosa fondamentale per una buona situazione di coppia siano i litigi. Pare che all'interno del litigio, anche se il paradosso, le coppie che litigano di meno sono statisticamente quelle più a rischio di rottura. Quindi ogni tanto, se c'è quel piccolo, come si dice, l'amore è bello se non è litigarello. Litigarello, come si diceva una volta. Quindi ogni tanto il litigio ci sta, il confronto, no? È giusto, ci vuole anche. Non ci vuole nemmeno bene. Ecco, ogni tanto. Tu litighi con Erika. Certo. Non litigare, però discutiamo. Io incazzato, lei tranquilla. Tu la picchi? No, picchi. No. Litigi ovviamente che devono essere leciti anche legalmente, però ecco, le coppie litigarelle sono quelle che, secondo Anna Fry, hanno più possibilità di prosperare e di stare bene. Quindi ogni tanto il litigio sparatevelo pure. Ma altra grande verità di Anna Fry, questa ragazza professoressa di matematica all'università londinese, che addirittura ha scritto un libro, The Mathematics of Love, dove lei spiega anche che il partner giusto arriva mediamente dopo 4 relazioni fallite. Cioè, secondo lei, mediamente il partner giusto è il quinto. Penso che in certi casi valgano anche i multipli, altrimenti Anna Fry mi deve regalare un libro che mi mandi una copia omaggio del libro. Se valgono i multipli, io sono ancora nella linea di massimo. Dice, scattando il 40% di relazioni che hanno possibilità di suonare di meno. La quinta dovrebbe essere quella che, secondo la matematica, in grana la quinta, perché giustamente la prima, vabbè, è la prima, si sa, devi ancora esplorare la cosa. La seconda è, devi esplorare. La terza, già ne hai due alle spalle, sei un po'. La quarta, no, quelle altre tre pazze, lasciale stare, eccetera. Alla quinta, quando ormai hai beccato quattro psicopatiche, la quinta è quella che ti renderà felice. Quindi, ragazzi, Anna Frye dice così, bisogna crederlo, almeno augurarsi che bastano 5 relazioni per trovare questa chimica ideale. Vi risulta 5 relazioni, che non sono poche, tra l'altro. Spero può che essere multipli davvero. Però può essere, tra l'altro, una volta 5 fidanzate erano tante. Cioè, ai tempi era una cosa incredibile. Ma già bastava uno per essere troppo. Ma poi ai tempi era solitamente, c'era una, due, e poi. Sì, comunque fino a 20, anche 30 anni non è che. Oddio, 30 anni già era tanto. Uh-huh. 25. Beh, calcolo che prima comunque sia. Se tu hai la donna, non uscivi di casa a frequentarti con il ragazzo, se non avevi accanto la madre o il fratello che ti stavano appresso, più che altro. C'era solo, non è che uscivi. C'era tutta una dinamica era diversa. Era tutta questa cosa, era tutto, invece adesso c'è tutta questa libertà che. Anche all'interno della coppia, certo, è un'altra, altri idee. Invece adesso subito su internet, ah sì, sì. Mi trovo. Ti... Ma adesso più che altro è scoppiato il boom della moda della friendzone, più che altro. Ah, una cosa incredibile. Questa. Abbiamo parlato in altre puntate. La temibile friendzone, però. Che non esiste. Per te. No, però non vabbè. Esiste, ragazzi. Ragazzi, ci sono diverse teorie, però tenibile comunque l'idea che un rapporto non vale, diciamo, come tu te l'aspetti, e ti becchi quel mezzo due di picche che ti mette al confino. Ma ragazzi, alla fine, ormai i tempi sono diversi, quindi anche se ti becchi una friendzone, vai su le varie chat, scrivi ciao, ti voglio conoscere, TVB, CCC, pupupu, quindi non perderti d'animo, perché c'è sempre tempo. E poi l'amore è una cosa grande, lo dimostra anche, in senso, diciamo, più metaforico, più ampio, un musulmano, lui è andato a, diciamo, si è messo nelle strade, in una strada di Toronto, bendato, con quindi in questo momento, diciamo, molto difficile per comunque tutta la comunità musulmana, che è spesso etichettata come terrorista o vari problemi. Lui è andato bendato nelle strade di Toronto con un cartello: mi fido di te, se ti fidi di me, abbraccio. E quindi si è presentato così alla comunità di Toronto. In molti sono fermati a guardare, qualcuno si è dedicato all'abbraccio, qualcuno addirittura l'ha stretto a sé in gesto di totale, diciamo, amicizia. Cioè, però è un esperimento molto particolare. Abbraccia un musulmano, si intitola questo diciamo test sociale fatto da questo ragazzo a Toronto. Ragazzi, e voi, un musulmano lo abbraccereste? Ma è bello, perché in Canada da poco c'è stato un attacco terroristico e... Appunto. E tra l'altro loro esatto. Legato a doppio filo con i francesi, quindi voglio dire, la sentivano particolarmente. Però tra ragazzo... l'altro hanno fatto un altro esperimento in cui si erano messi d'accordo un ragazzo vestito da musulmano con tanto di turbante, non mi ricordo se si chiama così. E un altro che si era messo lì a insultarlo dicendo: no, io non salgo con questo sull'autobus, non so che ci fa esplodere. Si sono messi a difendere i musulmani, è stato bellissimo. Vedi che l'amore regna. Un musulmano si può abbracciare, no? Cioè non c'è nulla di sconveniente. Abbiamo uno qua davanti, quindi non proprio. Attenzione, lo teniamo così in versione molto candida. ragazzi no, però comunque c'è questa accettazione. La versione 2.0 di questo test sarà un ragazzo vestito da pizzaiolo che parla italiano e dire: non sono mafioso, sono un italiano. facciamo questo, perché secondo me è il prossimo test da fare, superare l'ipocrisia, diciamo, il razzismo verso l'italiano e il suo legame con la mafia. Ragazzi, grandi notizie questa settimana, l'amore in tutti i sensi. L'ultima notizia prima del Voglio Rosso, preparatevi che sarà particolarmente piccante, sicuramente tanti commenti femminili questa settimana. Lei è una donna che vive in Nord Corea, 52 anni, quindi comunque neanche giovanissima. Per aiutarsi nei mestieri di casa ha comprato un robottino che andava in giro giorno e notte a spazzolai, scopare casa, no? Quindi sistemare di quelli elettronici, eccetera. Tipo folletto, no? Quei robottini che stanno a terra e passano a continuazione. Non l'avesse mai fatto, pericolosissimo. Nella notte il robottino si è attaccato ai suoi capelli e quindi l'ha minacciata aggredendola praticamente. Come ha fatto attaccarsi i capelli? Perché, ragazzi, questi non è neanche un caso tanto raro, perché loro praticamente dormono per terra. Questa donna si era un attimo lasciata andare, si vede coi capelli sciolti a terra quella notte, e il robottino tac si è attaccato. E tu pensi, sei un dottore tipo al pronto soccorso dell'ospedale di una qualsiasi città della Nord Corea, ti senti chiamare, c'è quello che sta male, c'è quello del mal di pancia, c'è quello del mal di testa, no, c'è la donna che è stata attaccata dal robottino della notte, bisogna andargliela a staccare dalla testa. Ragazzi, la tecnica. Mi sa che è finita così, perché comunque è stata assistita dai paramedici addirittura, che comunque l'hanno curata in questa Sud Corea. Per levarla alle grinfie del robot, addirittura è andata all'ambulanza con i paramedici, hanno fatto un taglio necessario. E pensa, là sono cresciuti molto in popolarità questi robottini aspirapolvere, però c'è anche questo problema. Hanno lasciato la corrente accesa. Loro sono sempre attivi, sono dei robottini che ogni tanto girano per casa. Ma non sono attaccati alla corrente? Sì, ma loro automaticamente si staccano dalla corrente, girano per casa, puliscono casa e si riattaccano. Hanno un aggancio particolare, quindi sono del tutto automatici. Questa tizia, loro la dormono a terra, quindi lei sarà addormentata tranquillamente a terra, il robottino è andato a pulirgli casa. Si era attaccato, quando l'amore è veramente cieco. Sei là nel cuore della notte, tac, e c'è il robottino. Dammi il tuo corpo. Come mi dico, numero 5 di cortocircuito, il famoso film. Ragazzi, ultima notizia, bollino rosso, cosa non si fa per salvare un matrimonio? Lo sa bene questa ragazza di nome Heather Leyva, che nel continente delle Americhe praticamente ha scoperto, lei, donna con figli, comunque non giovanissima, diciamo, la classica madre americana, così, scopre un tradimento, scopre che il marito la tradisce. Allora lei cosa fa? Una cosa straordinaria, si mette veramente in gioco, quindi scopre che il marito la tradisce, lo vuole riconquistare, va a comprarsi la biancheria intima, quella un po' particolare, va a fare questo affinamento, diciamo, delle tecniche di seduzione, quindi per diventare ancora più provocante, ancora più così, eccetera. Alla fine questa donna diventa una pornostar, cioè per salvare il suo matrimonio, in questa escalation arriva a diventare una pornostar, cioè addirittura pensate che fantastica fiaba moderna. Perché alla fine di tutto questo, quindi lei si mette talmente in gioco da entrare nel circuito, diciamo, un po' perverso di queste produzioni a basso costo, quindi continua imperterrita a cercare di riconquistarlo, eccetera, diventa pornostar, ma la cosa incredibile è che non è riuscita a salvare il matrimonio. Però ha trovato un posto di lavoro. Però ha trovato un posto di lavoro di questi tempi. Che serve? Cosa si farebbe per salvare una relazione? A parte diventare pornostar. Cosa sareste disposti a fare? Una relazione ideale? Diventare più? Giallo, già, perché il giallo tira, il giallo, il nero invece snellisce ed è pericoloso in certe situazioni. Cosa non si fa? Di tutto per... salvare una volta invece è una cosa più tranquilla. Una volta c'erano anche divorzi, non c'erano praticamente, quindi comunque. Ma hai sentito dire? Erano tempi in cui ancora non era forse neanche legale, sì, ormai c'era comunque anche più accomodanti un pochettino, eccetera. E quindi pensate, questa ragazza, ragazze, assolutamente mettetevi in gioco, non forse a questo livello di gioco, però comunque è un esempio particolare, lei resterà nei bookmark di molti vostri fidanzati. Quindi ragazzi, la cena dei regini tra poco, continuiamo con l'angolo della classifica, la cena dei regini aspettando San Valentino. E tu, cena@back.it, cosa fai aspettando San Valentino? Come salveresti la tua relazione? O come la stai salvando adesso in questi giorni aspettando la cena di San Valentino? A tra poco con la cena dei regini, un piccolo spazio musicale. We'll be right back. Ragazzi, la cena dei regini, la cena dei regini, aspettando San Valentino, cena che c'è il bacco.it per commentare questo blocco, il bacco.it, clicca la cena dei regini per guardare tutte le puntate della cena dei regini, tutte le tre stagioni, incredibile, quanta strada che abbiamo fatto. E a tal proposito, strada fatta, strada da fare anche in senso, diciamo, amoroso. E quale migliore classifica adesso per te che ci stai ascoltando e vuoi, come dire, quello spunto poetico per una dichiarazione di San Valentino coi contro fiocchi, esattamente. Sai che non sto per dire li conosco, quindi è meglio andare a sto per dire paperello, quindi paperello o meno, andiamo a guardare le sette estratti di lettere d'amore più famose della storia, quelle più particolari, ma soprattutto quelle di personaggi abbastanza famosi, famosissimi, che hanno dedicato alle loro consorti, alle loro filarine, alle loro amichette del momento. Ad esempio, iniziamo con questa frase di Johnny Cash a sua moglie June Carter Cash. Quindi nel 1994 Johnny scriveva: siamo diventati vecchi e ci siamo abituati a stare assieme. Pensiamo alle stesse cose, ci leggiamo nella mente, sappiamo cosa vuole l'altro senza dover chiedere. A volte l'uno fa irritare l'altro, forse a volte ci diamo per scontati, ma di tanto in tanto, come oggi, medito su di noi e mi rendo conto di quanto sono fortunato a condividere la mia vita con la più grande donna che io abbia mai incontrato. Dai, fare così, però voglio dire, quanta emozione. Johnny Cash, questo grandissimo della musica americana, che questo comunque, per quale ragazzo? June Carter Cash, la sua 94, dall'altro neanche una cosa giovanile, quindi, però pensa tu, questa lettera d'amore così spregiudicata, così eccessiva quasi, così, quindi cos'è? Ma soprattutto lui, quello che sottolinea, è bello che parte dicendo: siamo diventati un'abitudine, abbiamo litigato, ci diamo per scontati, però tac, poi gliela piazza là con questa bellissima finale. Quindi scrivi, annota, tu che sei a casa, lettera d'amore perfetta, parti un po' così, finale mozzafiato. Questo può essere già una cosa importante. La numero 2. John Keats confessa il suo amore a Fanny Brown nel 1819. Non posso vivere senza di te, mi dimentico ogni cosa, ma quando ti vedo di nuovo la mia vita sembra fermarsi qui. Non vedo nient'altro, mi hai assorbito. Cioè, scrive una cosa del genere a una donna nel 1819, che poi erano veramente altri tempi, altre ere. Il 1819, penso, questo amore assoluto, sfrontato, incredibile. Sì, perché all'Ottocento non c'era poi tanto questa, diciamo, questo romanticismo, era più dai ciao e già sposati, figli, punto. Una cosa invece, guarda, adesso questa, tra l'altro, confessa il suo amore, perché giustamente era una cosa di approccio. Non oso immaginare cosa ho scritto dopo, però sicuramente molte donne vorrebbero sposarlo adesso. Alla numero 3, ragazzi, due icone, due veramente, una coppia incredibile, Ernest Hemingway e Marlene Dietrich. 1951, Ernest scrive: non riesco a dire come ogni volta che metto il mio braccio intorno a te io mi senta a casa. Ragazzi, la semplicità, segna, tu che sei a casa, segna. Semplicità può funzionare. Mi sento a casa. Ta, piazzata subito. Scrivilo sul tuo WhatsApp. Adesso che non bisogna neanche spendere per la carta, puoi anche scatenarti così. Quindi, alla numero 3, Hemingway, semplicità. Alla numero 4, coppia che non ti aspetti particolare, Napoleone Bonaparte e Josephine de Beauharnais. Era il 1796 quando il ragazzo francese scriveva: da quando ti ho lasciato sono sempre depresso. La mia felicità è essere vicino a te. Rivivo continuamente la mia memoria, le tue carezze, le tue lacrime, la tua affettuosa sollecitudine. Il fascino dell'incomparabile Josephine Kindle accende un bruciore, una fiamma incandescente nel mio cuore. Capisci? Capisci? Attenzione, perché la partenza è sono depresso. Attenzione, pericolo. Pericolo emotivo. Però poi si riprende con questa... appunto, proseguendo in maniera molto, molto energica, molto così, un fascino incomparabile. Josefina accende un bruciore, quindi anche questa cosa un po' passionale, capito? A Napoleone, la manetta, così, e poi ti stupisce in questa maniera. Ragazzi, 1964, un po' più vicini a noi, i miei occhi ciechi aspettano disperatamente di vederti. Non te ne rendi conto, naturalmente, quanto bella, affascinante sei sempre stata e come hai acquistato un valore aggiunto di speciale e pericolosa grazia. Questo scriveva Richard Burton a Elizabeth Taylor nel 1964. Hai capito, Liz? Hai capito, Liz? Elizabeth Taylor, grande attrice. È passato Richard Burton, altro grande classico. Quindi comunque c'era questa cosa, il mio piacere aspetta disperatamente di vederti, quindi un po' di disperazione, segna, disperazione, quanto basta, meno di Napoleone, più di Richard Burton, già ci siamo quasi ragazzi, alla numero 6, anche a voi, mi raccomando attenzione, alla numero 6 Gerald Ford ricorda il suo moto a sua moglie Betty, dopo che è stato diagnosticato un cancro al seno, quindi un momento particolare. 1974, Gerald Ford scrive: non ci sono parole che possano adeguatamente esprimere il nostro profondo, profondo amore. Sappiamo quanto sei grande e noi, i bambini e il papà, cercheremo di essere forti come te. La nostra fede in te e in Dio ci sosterrà. Il nostro amore totale per te è eterno. Quindi una dichiarazione che sfida anche i momenti difficili, quindi scrivi, segna. Superare momenti difficili, guardare avanti sempre. L'ultima lettera dal passato, famosissima, personaggio veramente incredibile. Scrive Jimi Hendrix alla sua fidanzata. Jimi Hendrix alla sua fidanzata: la felicità è dentro di te, quindi rompi le catene del tuo cuore e lascia che tu diventi il fiore dolce che sei. Conosco la soluzione? Basta aprire le ali e metterti in condizione di essere libera. Jimi Hendrix, fantastico, apri le ali e metti in condizione di essere libera. Dopo aver scritto questo probabilmente avrà bruciato la penna, che ovviamente aveva questa situazione. Quindi apri le ali e permetti di essere libera. Quindi ragazzi, abbiamo tutti gli elementi adesso. non mi scatenare, no, ti fa parlare, no? Così è un nuovo perché abbiamo iniziato questo nuovo ballo. Cosa? Sono i momenti folli della cena, quelli in cui deve succedere di tutto. Botolo, tardi. Abbiamo inventato questo nuovo ballo così. Grazie all'ispirazione del grande Jimi Hendrix. Adesso ragazzi, prima di chiudere, i ragazzi ci daranno un loro estratto, un estratto di quello che abbiamo appreso fino ad ora. Abbiamo un minutino, il minutino finale. Una lettera, adesso una dedica d'amore. Come la scriveresti in questo momento? Mia cara Erika, sono ormai trascorsi un bel po' di anni che stiamo insieme. Ti ho visto crescere e continuo a vederti crescere. Il primo momento con cui ti ho conosciuto non credevo che tutto ciò poteva essere possibile e che ora comunque sia, trovandoci insieme in questo amore comunque sia forte e molto resistente come cosa, non potrei mai comunque sia immaginare un'altra vita accanto a un'altra donna, e così comunque sia sono molto più che felice a sentirmi vivo accanto a te e accanto alle tue parole. Danese, ha preso benissimo, facciamo un applauso, un momento di poesia vera, un momento di poesia vera adesso. Non parlare di Paperelle. il tuo momento, la tua dedica? Possibilmente una GR Scotti. Non lo so, perché ho scritto una poesia per Giada l'altro giorno, però è troppo lunga, quindi non... Se dovessi scrivere due parole alla Jimi Hendrix, un rigo alla Jimi Hendrix su questo non lo so, non mi viene così. Quindi non mi vengono le parole perché l'emozione è troppo... Non mi fare questo, ragazzi, le lacrime scorrono il mio viso perché sto scrivendo le parole per te, e quindi, cara Giusy, andiamo sul personaggio di fantasia, dai. Sono qui nel cuore della notte, ho mangiato tanto, ma nulla mi sazierà della tua assenza. Attenzione. Sì, era esattamente quello che volevo dire. Vedete, ragazzi, allora vi abbiamo dato gli spunti giusti. Anche voi, se avete il cuore peloso o se avete l'animo veramente romantico, mi raccomando. No. Poi dai. Una volta era così, si scrivevano le cose, le lettere, le letterine si davano. Poi negli anni 80 si attaccavano sui motorini, sì. Poi negli anni 90 si lasciavano nella busta delle lettere, adesso non si fa più niente perché Io non ho mai fatto niente. Giustamente, ognuno ha avuto le sue esperienze. Ma anche prima, Tu hai avuto sempre un dialogo diretto, senza lettere, senza cose. No. Ognuno giustamente ha trovato i suoi metodi. Vedevo che lui non faceva niente, io non facevo niente a lui. ragazzi, attenzione, anche questo. Finiamo anche il finale. Per il compleanno non mi faceva niente, me okay. Cosa facevo? Niente, giustamente. E quindi comunque tu dici, se non c'è un do ut des, cioè... Se a me mi facevano qualcosa, a me ho messo così... Oh. E quindi, ragazzi, un grande insegnamento finale della nostra Andreina, cioè che l'amore è dare e anche ricevere. Do to des, aspettando San Valentino. C'è una chioccia del Bacco.it, commenta questa puntata. Ora andiamo alla chiusura. E il Bacco.it per guardare tutte le puntate assieme, ragazzi. Noi ci vediamo settimana prossima con la cena dei Regini. Un saluto dal Bacco e dei ragazzi della cena dei Regini. A settimana prossima, ciao. Ciao. Healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the. But here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise. And through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's like being an interdimensional ride. I'm the healing for your scars. I'm the night.